Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. E per questa sera saranno notizie in 30 minuti. Buonasera da Marta Cagnola, una edizione speciale di mezz'ora per questo Effetto Notte del giorno di Pasquetta. Ci sono molte notizie anche in divenire in questi momenti, quindi subito con i titoli. Intanto un'ultima ora che stiamo leggendo praticamente insieme a voi con le agenzie che in questo momento si stanno susseguendo sui nostri terminali. Washington, uditi spari nei pressi di Capitol Hill. L'Associated Press sta battendo una notizia secondo in cui Congresso degli Stati Uniti e Casa Bianca sono stati chiusi e isolati dopo la notizia, appunto, di questi spari nei pressi di Capitol Hill a Washington, e in particolare la sparatoria sarebbe avvenuta all'interno del centro visitatori del Campidoglio. Questo lo sostengono fonti interne al Senato, che dicono di aver sentito diversi spari. La polizia ha chiesto alle persone che si trovano all'interno degli edifici di restare all'interno e di non muoversi. Intanto la CNN sta trasmettendo le prime immagini concitate, appunto, di persone che scappano, ma per il momento non ci sono altre indicazioni. Seguiremo le agenzie insieme a voi e vi aggiorneremo minuto per minuto su queste notizie che ci stanno arrivando dagli Stati Uniti. Le altre notizie del giorno: Bruxelles, indagini incerte a una settimana dalle stragi. Rilasciato Faisal Chefou era sospettato di essere il terzo uomo della strage all'aeroporto. L'algerino arrestato a Salerno dice: non sono un terrorista, nega un ruolo nella falsificazione dei documenti. Pakistan, a Lahore 72 morti, tra le vittime 30 bambini. Il Papa: crimine vile e insensato. Palmira, la sfida vinta da Putin, 6 mesi di operazioni militari che hanno cambiato la scena siriana. E dunque ripercorriamo le notizie di questi giorni, ma in particolare quello che è successo oggi in merito alle indagini dopo gli attentati di Bruxelles. Indagini incerte una settimana fa, martedì scorso, le stragi. Oggi rilasciato Faisal Chefou, che è stato ritenuto per qualche ora il terzo uomo della strage all'aeroporto. Per aggiornarci su tutto quello che è successo, in studio con me Sergio Nava. Buonasera Sergio. Buonasera Marta, ne approfitto, scusa se mi intrometto, ma ci sarebbe, secondo l'Associated Press, un poliziotto ferito e la persona sparato sarebbe già stata fermata. Questo dice l'Associated Press, parlando chiaramente di Washington, di quello che è successo appunto a Washington. Però tornando invece a Bruxelles, quindi a quanto avvenuto oggi, è successa una cosa molto strana, potremmo dire, perché Faisal Chefou, che era considerato il terzo uomo dell'attentato a Zaventem, è stato rilasciato dalla polizia che l'aveva arrestato giovedì, poiché a quanto pare solamente il tassista lo avrebbe riconosciuto e quindi non altre prove diciamo, evidenti. Questo sarebbe insufficiente secondo la procura federale. La cosa strana in tutto questo è che le accuse a suo carico sono state tutte quante mantenute. Le accuse per terrorismo e strage, che con le quali era stato incriminato formalmente, sono rimaste. Ora della giustizia belga e degli inquirenti belgi si è molto parlato in questi giorni. C'è un'apparente contraddizione in tutto questo. Se in questi tempi, come dire, assolutamente drammatici, assolutamente di emergenza, è molto strano che una persona che resta sospettata fortemente di partecipare ad azioni terroristiche venga rilasciata solo perché non ci sono prove sufficienti per determinare sia stata questa persona a far parte del comando. Quindi questa è la principale novità di oggi. Intanto è allerta per la marcia che i militanti di Generazione Identitaria, una rete di estrema destra a livello europeo, organizzerà sabato a Bruxelles dal titolo Islamisti fuori dall'Europa. Una marcia che partirebbe nelle intenzioni da un punto cruciale della città, appunto la piazza principale di Molenbeek, uno dei quartieri a maggiore densità di musulmani. Il sindaco di Molenbeek ha già annunciato che negherà i permessi. Questo fine settimana c'è stata anche la manifestazione di questi hooligan che hanno protestato nonostante fossero vietate tutte le manifestazioni. Sergio, lo ricordiamo, tu sei appena tornato da Bruxelles. In questo senso, cosa è successo e quali sono gli umori che tu hai raccolto in Belgio? Diciamo che è suonata abbastanza strana, almeno per quanto ho potuto vedere questa marcia, questa manifestazione, potremmo dire, di hooligan che c'è stata ieri, anche perché il Belgio comunque ha affrontato con grande dignità e compostezza questi giorni, dopo la dopo chiaramente la paura, dopo i sentimenti fortissimi che un intero paese ha provato. Ho notato grande compostezza, anzi ho visto anche da parte, quando sono stato in Piazza della Borsa, è stato il fulcro delle commemorazioni, ho visto tanti musulmani lì, anzi tantissimi veramente, che venivano in qualche modo a portare la loro solidarietà, a dire noi non c'entriamo niente e questa violenza non fa parte della nostra cultura. Quindi diciamo, può essere stato, almeno lo spero, un episodio a parte. Questa marcia annunciata purtroppo fa intendere che potrebbe essere un altro seguito. È anche vero che questa marcia ha provocato fortissime polemiche politiche in Belgio. Devo dire che sia a livello di indagine, diciamo prima, sia a livello anche di gestione un po' di questo momento così delicato, qualche errore lo si è fatto, ma far partire un convoglio, un treno con a bordo questi hooligans, e il sindaco di Vilvorde lo sapeva, lo ha anche detto, è stato sicuramente un errore clamoroso. Se c'è una cosa che in qualche modo occorre fare adesso è mantenere la calma e cercare di andare avanti con le indagini. Perché ricordiamo anche una cosa, non si sa ancora con certezza chi fosse questo terzo uomo del comando. E c'è anche un possibile secondo uomo dell'attentato in metropolitana, Malbec, che potrebbe anch'egli essere in fuga. Quindi è quanto più tentacolare questa piovra terroristica che ha colpito sia Parigi sia Bruxelles. In questo momento è una corsa contro il tempo a cercare di, in qualche modo, fermare chi è rimasto, e quindi sicuramente la priorità deve essere questa, almeno a mio parere. Tra l'altro, in questi giorni le notizie passano anche per l'Italia. Si dice che uno degli attentatori abbia preso un volo quest'estate da Venezia e che Abdeslam, il responsabile delle stragi di Parigi, che poi è stato arrestato, sia passato da Bari sempre negli scorsi mesi. In questi giorni è stato arrestato un uomo in Italia, Jamal Eddin Wali, algerino, è stato arrestato con l'accusa di essere uno dei falsificatori di passaporti che sarebbero serviti ai terroristi. È stato arrestato in provincia di Salerno, a Bellizzi, e noi abbiamo in collegamento il sindaco di Bellizzi, Domenico Volpe. Buonasera Volpe. Buonasera a voi. Allora, sindaco, ci sono molti dubbi da parte sua su questo arresto. Intanto, lei cosa ne pensa? Perché quest'uomo si dice totalmente estraneo. Lui dice io non ho avuto nessun ruolo e soprattutto non c'entro nulla con questo tipo di attività. Però la prima domanda è che cosa faceva Bellizzi? Perché certo, effettivamente immagino sia una mena cittadina, però non posso immaginare che sia un grave crocevia. Lei cosa ne pensa? No, è un crocevia di integrazioni. Qui c'è sempre stata una politica di inclusione, cioè, quindi si figuri. Io ho detto con qualche mio concittadino, guardate, dobbiamo stare tranquilli perché la politica di questi anni che abbiamo fatto, in questi 27 anni, Di politica attiva, c'è la moschea, 1990. Abbiamo fatto progetti di integrazione europea, formando cooperative. Abbiamo qualche problema di collegamento? Sindaco Volpe, c'è ancora? Sì, io eccolo, la sento. Adesso la sento meglio. Sì, eccoci. Io la sento. Sì, diceva che insomma... Dicevo con qualche mio concittadino, guardi, saranno loro stessi a difenderci perché non consentiranno di far entrare persone violente, perché qui la politica di integrazione ha funzionato, ma era naturalmente un modo anche per drammatizzare e dare un messaggio di sicurezza alla comunità. Noi siamo 14.000 abitanti, siamo una comunità che nasce allo snodo tra i Monti Picentini e la Piana del Sele. Qui abbiamo il fenomeno dell'immigrazione che è abbastanza cospicuo e forte, perché abbiamo attività di cultura intensiva, serricola, ci sono tantissimi lavoratori extracomunitari. Signor Sindaco, io la ringrazio per questo suo intervento. Allora, noi aspettiamo poi quello che diranno gli inquirenti, che continuano a sostenere che non c'è stato nessun errore di identità. Torneremo a collegarci con lei magari nei prossimi giorni per capire insomma gli sviluppi di questa situazione. Grazie al Sindaco di Bellizzi, Domenico Volpe, buonasera. Buonasera a voi, grazie. Allora, intanto in questo momento possiamo collegarci con gli Stati Uniti per capire cosa sta succedendo a Washington. Abbiamo in collegamento Mario Platero. Buonasera Mario. Buonasera, buonasera. Beh, dunque, come forse avrete visto, c'è stata una sparatoria improvvisa al centro visitatori del Congresso, che il centro visitatori parte nel sotterraneo del Congresso, si parte da lì e poi ci sono le visite a Capitol Hill. Sembra che si sia trattato di un gesto isolato, di uno sparatore folle, diciamo, il quale è già stato immobilizzato, ha tirato fuori una pistola, ha sparato, ha ferito un poliziotto e dopodiché è stato disarmato e immobilizzato. Cosa succede? Nel momento in cui c'è anche soltanto l'idea di un attacco a una delle grandi istituzioni americane, scattano le misure di allarme, di antiterrorismo, per cui il Congresso in questo momento è isolato, la Casa Bianca è isolata, alcuni uffici sono stati evacuati, ma si tratta di semplici misure preventive nel caso possa esserci qualche cosa di più dietro questa sparatoria, di cui ancora sappiamo poco perché è avvenuta letteralmente appena pochi minuti fa. Grazie, grazie a Mario Platero da Washington. Torneremo ad aggiornarci sulla notizia non appena avremo altri particolari e nelle prossime edizioni di GR24. Grazie a Mario Platero. Sergio, adesso su cosa sono puntati gli occhi per quanto riguarda le indagini a Bruxelles? Ma sicuramente quello che occorrerà capire adesso è innanzitutto trovare questo terzo uomo dell'aeroporto di Zaventem, sempre che non sia lo stesso Faisal Shefu, insomma su di lui i sospetti rimangono, il tassista ha riconosciuto. E quello che si sta notando è che si sta allargando la caccia. C'è stato ieri un arresto in Olanda, ci sono stati a Argenteuil la settimana scorsa in Francia altri arresti. Si sta sicuramente cercando di fare piazza pulita di ciò che in qualche modo di quella cellula che è alla base dei due attacchi di Parigi e Bruxelles. È importante anche sicuramente evitare altri errori. E infatti prima, sentendo il sindaco, chiaramente si può capire lo sconcerto, però la storia recente ci insegna che persone rilasciate o trattate con leggerezza poi possono rivelarsi invece pericolose. Quindi sicuramente quello che occorrerà da adesso fare è assolutamente evitare qualsiasi tipo di errore, e anche perché è difficile capire quanti ne manchino ancora alla cattura, chi sia ancora libero, se ci sono cellule pronte a colpire. Quindi è l'incertezza che sicuramente sta un po' segnando questi giorni, e domani sarà anche la prima settimana dall'attentato. In tutto questo le vittime sono diventate 35, sono morte 4 persone in ospedale e abbiamo ancora l'aeroporto di Bruxelles chiuso, non si sa ancora quando riaprirà, mentre lo scalo di Charleroi, che è quello diciamo low cost, sta continuando a vedere crescere il numero di passeggeri, perché chiaramente molti si spostano lì. Quindi è ancora un quadro di grande incertezza. Devo dire, l'ultima mossa su Faisal Shefu fa venire un po' di paura su come si stiano gestendo queste indagini, perché c'erano, come dire, dei punti fermi. Certo. Cominciare a vederli crollare fa venire anche dei dubbi su cosa effettivamente sappiano gli investigatori e cosa invece non sappiano. Ci sono ancora tantissimi punti di domanda su questi attacchi. Grazie a Sergio Nava per tutti gli aggiornamenti. Noi ci ritroviamo tra poco ancora con questa brevissima edizione di Effetto Notte. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Le notizie di oggi: come avete sentito, gli spari a Capitol Hill, Washington, sarebbe stato uno sparatore isolato e che ora è stato fermato, ovviamente continueremo ad aggiornarvi nelle prossime edizioni di GR24, ma abbiamo sentito ora la situazione nella diretta di Mario Platero. E poi, come abbiamo detto con Sergio Nava a Bruxelles, indagini incerte a una settimana dalle stragi, rilasciato Faisal Scheffou, era sospettato di essere il terzo uomo della strage all'aeroporto, mentre l'algerino arrestato a Salerno dice non sono un terrorista, nega un ruolo nella falsificazione dei documenti. Pakistan a Lahore 72 morti, tra le vittime 30 sono bambini. Palmira, la sfida vinta da Putin, 6 mesi di operazioni militari che hanno cambiato la scena siriana. E torniamo a Lahore parlando proprio della strage di Pasqua, la strage avvenuta ieri. Per il secondo giorno consecutivo migliaia di fondamentalisti islamici hanno protestato davanti al Parlamento di Islamabad, chiedendo tra l'altro l'impiccagione di Asia Bibi, la madre cristiana condannata a morte nel 2010, con l'accusa di aver offeso Maometto durante una lite con altre donne. Quella del settarismo estremista è una condizione diffusa nel Pakistan di oggi, come spiega il professor Said Mobin, docente di storia e cultura islamica alla Pontificia Università Lateranense. Beh, nella quotidianità un cristiano, per esempio, non può mai aprire un ristorante perché il 97% del popolo che è musulmano non ci andrebbe a mangiare perché il ristorante è impuro in quanto proprietario è cristiano. Prendiamo anche l'esempio stesso di Asia Bibi, ormai conosciuto a livello mondiale, che tra le sue colleghe musulmane non potevano bere acqua dallo stesso bicchiere perché dalle colleghe musulmane lei è considerata impura e per cui anche il bicchiere da cui ha bevuto, e le musulmane non dovevano bere acqua da quel bicchiere. Per esempio nelle scuole statali i bambini cristiani o indù, per cui anche altre minoranze religiose, se vanno nella scuola statale non possono usare per esempio i stessi panni, perché addirittura il bambino musulmano rifiuta di usare il stesso bagno dove c'è andato il cristiano, e c'è un divieto in generale, non vogliono avere il compagno di banco non musulmano perché è impuro. Difficile, difficilissima la situazione in Pakistan. E invece cosa è successo in Siria? La sfida vinta da Putin, Palmira, 6 mesi di operazioni militari che hanno cambiato la scena siriana. Ne parliamo subito con Gigi Donelli in studio con me. Gigi, allora buonasera Gigi. Buonasera Marta, un saluto agli ascoltatori. Una notizia importante nel quadro della guerra che colpisce da 5 anni la Siria. 5 anni, diciamo che come sempre giornalisticamente abbiamo bisogno di punti di riferimento, siamo soliti considerare l'inizio della guerra il 12 marzo del 2011, quindi i giorni in cui di fatto il regime di Assad spara sulla protesta studentesca nella città di Homs. Naturalmente quella guerra civile poi ha assunto pieghe completamente diverse, con sviluppi devastanti per l'intero paese e quindi le conseguenze per l'Europa, e oggi, o meglio ieri, sicuramente si raggiunge un punto di svolta, senza dubbio. Gigi, ti chiedo solo cosa è successo a questo punto a Palmira? Ma a Palmira è successo essenzialmente che le forze governative, quindi le aliste di Damasco e dunque del regime di Assad, supportate dall'aviazione russa, la massiccia presenza dell'aviazione russa e delle forze sul terreno legate a Hezbollah e quindi all'Iran, hanno fatto sloggiare, dopo una battaglia accanita, l'ISIS che era presente a Palmira, o meglio Palmira è un termine che usiamo noi perché il nome del luogo Tudrum, che poi è sinonimo, si riferisce sempre all'albero della palma, è questa città che oltre a essere noto come centro archeologico e quindi prezioso per la cultura e l'umanità intera, centro romano ma presente 10 secoli prima dell'arrivo dei romani, ecco, oltre a questo Palmira è un centro nevralgico perché è la strada, siamo nel pieno del deserto siriano, che porta dunque, diciamo, dal Mediterraneo verso l'Eufrate. Lungo l'Eufrate ci sono le città, a cominciare da Raqqa, la città, le capitali tra virgolette dello Stato Islamico. Qui da qui speriamo che sia una nuova strada verso la Siria. Grazie a Gigi Donelli per essere stato con noi. E prima di chiudere questo effetto notte, un'intervista, perché tra poco Radio 24 presenta il radiodramma Ustica, Una verità inconfessabile, sceneggiato e diretto da Renzo Martinelli, che dirige il film omonimo in sala dal 31 marzo. Attraverso la voce della protagonista, una giornalista che ha perso la figlia della caduta dell'aereo Itavia del venerdì 27 giugno 1980, si parla dei depistaggi e delle verità sulla tragedia che ha provocato 81 morti. La protagonista Caterina Murino al microfono di Boris Sollazzo. Ho sofferto tantissimo durante questo ruolo, lo vedi ancora, quindi non voglio nemmeno immaginare cosa possa essere in realtà. Quindi diciamo che ho cercato di affrontarlo e spero di aver dato almeno veramente un decimo, un millesimo di quello che poveri genitori o le persone che hanno vissuto in prima persona questa tragedia possono veramente aver vissuto. Mi rendo conto quanto possa essere stato difficile, però te lo devo chiedere, qual è stato l'approccio? Cioè, hai parlato con magari parenti delle vittime, hai cercato insomma di trovare una sponda, e poi anche sulla parte giornalistica, la preparazione? Parlare con i parenti delle vittime, no, non ho neanche avuto mai l'idea di poter dire che cosa ha provato, cioè sia la domanda forse più idiota che avrei potuto porre, cercare solamente umanamente di capire cosa loro hanno provato in quanto madre. L'unica cosa che il giorno prima di fare la scena dove andava a riconoscere il cadavere di mia figlia, ho detto a mia mamma: mamma, cosa si potrebbe passare, provare? Mia madre, giustamente, per fortuna non ha mai vissuto nulla di tutto ciò, mi ha detto: credo che ci si potrebbe strappare i capelli. E con questa idea, con questa frase di mia madre da mamma, sono nata con questa idea di cosa significa potersi strappare i capelli dal dolore. Poi giustamente la parte giornalistica, quindi la curiosità, soprattutto la curiosità che voi tutti i giornalisti avete nel scoprire le notizie, ma lì aveva un doppio motore. Infatti la scena che ho visto sembra un po' allucinata io, perché veramente ha una doppia spinta, non solamente il dovere da quanto giornalista, ma soprattutto il dovere in quanto madre, scoprire la verità sulla scomparsa di sua figlia. Linea dunque al radiodramma Ustica diretto da Renzo Martinelli. Grazie a Roberta Frisani in regia, Cristian Goldoni in redazione, da Marta Cagnola ancora l'augurio di una buona serata.